Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. E allora anticipo subito che oggi non attaccheremo, ma diciamo, metteremo sotto osservazione, cercheremo di capire, perché nessuno è intoccabile, ma dicevo cercheremo di capire e di analizzare come si sta muovendo un personaggio che da sempre abbiamo elogiato, soprattutto nel 2011, 2012, 2010, quando, 2012, 2013, quando era tra i pochi a cercare di controbilanciare un'idea di Europa tutta legata all'austerity, e mi riferisco al presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Perché? Perché anche oggi i quotidiani importantissimi, penso al Financial Times, torno sul rapporto Angela Merkel, Mario Draghi, ma non questa volta per metterli in contrapposizione, ma per dire attenzione, dice il Financial Times, per firma forse del suo più famoso o uno dei più famosi editorialisti, Wolfgang Münchau, dice attenzione, Merkel e Draghi hanno fatto errori gravissimi, la situazione attuale è più frutto di questi errori che della bolla finanziaria che arrivò dagli Stati Uniti. Come dire, c'è stata una crisi di carattere tutto finanziario, quella che poi è esplosa nel 2007 e soprattutto nel 2008, però adesso la situazione in cui è l'Europa, visto che tanti altri paesi si sono ripresi, o è l'Europa, è l'area euro, è più frutto degli errori commessi da Angela Merkel e Mario Draghi che non dagli strascichi, diciamo, dall'appendice della crisi finanziaria del 2007-2008. Ora, su Angela Merkel sappiamo tutti quali sono le critiche che vengono fatte alla Germania: troppo austerity, troppo calcolo ragionieristico sul 3% sul deficit, incapacità di comprendere che dire che la Grecia poteva, che non tutti i paesi potevano stare nell'euro e la Grecia poteva uscire, ha creato le praterie per la speculazione contro l'euro, e anche il non capire che se la Germania non inizia a consumare, a investire, gli investimenti tedeschi, lo raccontava molto bene ieri Alessandro Merli, le infrastrutture tedesche hanno anch'esse bisogno di un ammodernamento, insomma non puoi solo incamerare benefici dall'essere il paese più forte dell'euro e benefici di avere una valuta che rispetto al marco per te è ancora conveniente e non, diciamo, dare nulla e non dimostrare che sei il patron oltre che più virtuoso anche più ricco. Diverso il caso invece delle critiche a Mario Draghi, perché in questi mesi ne abbiamo viste poche, anche anni pochissime, ma con il dato a mio avviso più forte di questo mese d'agosto che si è appena concluso, che non è la frenata, non è solo la frenata dell'economia tedesca, la mancata ripresa di quella italiana e francese, ma è la deflazione acclarata in molti paesi, anche oggi, così come ieri abbiamo altri dati. E dicevo, c'è chi ha iniziato a dire, beh, insomma, se l'Europa è piombata, se l'area euro è piombata in molti paesi nella deflazione, beh, il controllo monetario, quindi l'andamento dei prezzi, è da sempre, storicamente, obiettivo e materia della banca centrale. Poi quella americana ha anche l'occupazione, il mercato del lavoro e la crescita come obiettivo, ma quella europea ha in primo luogo l'inflazione. Ora, ci troviamo in una situazione in Europa, lo dico con la massima prudenza, in cui rischiamo, secondo i critici, gli osservatori, una bolla di nuovo finanziaria, cioè i tassi sono a zero, il denaro costa pochissimo, c'è tantissima liquidità, ma questa liquidità e questo denaro che costa zero non sta facendo ripartire i consumi, cioè si rischia una bolla finanziaria, quindi che la liquidità venga usata per operazioni che gonfino in maniera surrettizie e non realistiche i prezzi, ma senza che questo porti un beneficio sui consumatori europei, sugli investimenti dei paesi europei. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece alcune notizie di cronaca. Intanto il dato sul commercio, ossia nel giorno in cui chiudono i saldi estivi, non ci si poteva attendere, vista anche la premessa che ho appena fatto, non ci si poteva attendere molto dai consumi in Italia, però Confesercenti dà dei dati sulle chiusure e le aperture di negozi da bollettino di guerra. Praticamente ogni due chiusure è aperto un negozio, Questo è in linea con il 2013, che però era il peggior anno di sempre, quindi ci siamo beccati un secondo peggior anno di sempre, da sempre. Tra l'altro è interessante, se vogliamo più da un punto di vista sociologico, che l'unico miglioramento si registri per il commercio ambulante. Anche questo è un segno della crisi. Tra l'altro, su questo, sui saldi sono ancora prudenti le associazioni di categoria, però attenzione, già da Roma la Confcommercio Federmoda fa sapere che a luglio vi è stato un meno 5% nei saldi rispetto al 2013, che era già un anno deludente. La borsa, come sempre, per quello che riguarda i mercati finanziari, oggi la giornata è positiva, moderatamente positiva in tutta Europa. Milano più 0,60, Parigi invariata, Francoforte più 0,30, Londra più 0,1, l'America più 0,1%, quindi anch'essa invariata. Da noi va particolarmente bene Mediolanum più 2,80, Autogrill più 2,20, Tod's più 1,90, Pirelli più 1,70 come Monte dei Paschi, un punto e mezzo lo guadagna Mediaset, l'1,30 rialza di Tenaris e di Generali e anche di World Duty Free e di Unicredit. Fronte opposto invece Unipossai meno 1, Ferragamo meno 0,90, Luxottica meno 0,80, Telecom mezzo punto percentuale di rialzo. L'euro, visto che parliamo anche di politiche monetarie, è ai livelli più bassi da un anno, a quota 1,31, però attenzione, dire che è ai livelli più bassi da un anno a questa parte non vuol dire che l'euro sia basso. Ripetiamo ancora, a nostro avviso un rapporto che rispecchiasse i diversi pesi economici tra America ed Europa ed area euro dovrebbe essere un rapporto intorno a 1,1 sul dollaro, un dollaro, un euro, ecco, non 0,80 come finì all'inizio, ma neanche 1,30. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ci occuperemo anche dei treni Italo, o meglio NTV. Perché? Perché la società potrebbe annunciare nelle prossime settimane l'avvio delle procedure per la messa in mobilità di 300 dipendenti su un totale di poco più di 1000, quindi una bella botta, sono il 30% dei dipendenti, che sono tra l'altro già in contratto di solidarietà. Allora, è chiaro che un taglio del 30%, lo capisce qualunque persona, significa anche limitare l'operatività di un'azienda. Ma le perdite sono arrivate ormai a 156 milioni in due anni, con un debito complessivo di 780 milioni di euro. Ci sono anche delle accuse che NTV ha presentato, per esempio un ricorso all'antitrust, arrivano al decreto competitività del ministro dello sviluppo Federica Guidi, perché dicono manca un'autorità di settore, qui c'è la guerra dei prezzi. Però oggi NTV fa anche notizia perché ha querelato il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, dopo che Gasparri, lo stesso Gasparri, ieri aveva attaccato con dei tweet a NTV dicendo Italo è un treno, ma altro che promozioni, presto chiuderete, siete quasi falliti, è rischioso comprare i biglietti venduti da Della Valle e Montezemolo. Allora, io dico una cosa, di fronte a una crisi di una società, di un'azienda, qualunque essa sia, perché di mezzo ci sono anche dei dipendenti, anzi ci sono soprattutto dei dipendenti, dei lavoratori. Caro vicepresidente Gasparri, ma possiamo evitare di fare polemica politica? A me non ne frega nulla se lei piace o non piace Della Valle o Montezemolo. Dico solo che creare, mestolare... così, e alimentare l'ipotesi che addirittura siete quasi falliti e rischioso comprare i biglietti, e te credo che poi questi ti querelano. No, facciamo la politica con altri mezzi, e se c'è un'azienda in crisi cerchiamo di capire eventualmente la responsabilità, ma soprattutto come tutelare l'occupazione, non diciamo la polemica, la polemicuccia ancora una volta con Della Valle, Montezemolo o con chi altro. Quando un'azienda è in crisi la prima preoccupazione deve andare ai dipendenti, ok? Allora è inutile poi invitare, creando il rischio allarme e creando un peggioramento della situazione, invitare, come lei ha fatto con un Twitter, a comprare i biglietti dicendo che è rischioso. Si fa obiettivamente, non dico del terrorismo, ma ci si va vicini. Allora, no, cerchiamo di non buttarla sempre in politica, anche quando in mezzo ci sono dei posti di lavoro che stanno o rischiano di saltare. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. il dibattito, anzi lo scontro sul salario minimo è uno scontro che è stato aperto, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato a luglio, dai dipendenti delle società di fast food. Sono tornati a incrociare le braccia, a fare sciopero in 100 città, chiedono $15 l'ora come diciamo salario minimo per i dipendenti. Non sarà però quello di oggi, quello annunciato, un semplice sciopero, perché i dipendenti delle catene che si chiamano McDonald's, Burger King, Wendy's, Kentucky Fried Chicken, al grido di Fight for 15, lotta per $15, sono disposti anche alla disobbedienza civile, seppur non violenta. La giornata di mobilitazione nazionale scatterà giovedì e interesserà oltre 100 città degli Stati Uniti. Attualmente il salario minimo di un dipendente di fast food è di $7.25 all'ora. La battaglia per l'aumento del salario minimo, lo ricordo, negli Stati Uniti è una battaglia che sta portando avanti il presidente Barack Obama, ma la cosa che ha fatto esplodere la pentola a pressione sono stati anche i dati sulla retribuzione degli amministratori delegati delle catene di fast food come McDonald's o Starbucks, che valgono in media 1200 volte lo stipendio di un dipendente del settore. È un record, perché già in America si è arrivati a 330 volte rispetto allo stipendio medio. Faccio notare che negli anni 70 il rapporto era di 1 a 43. Okay, per cui insomma, ma arrivare al rapporto di 1200 volte il salario medio, obiettivamente, poi mettiamola così, non ti devi lamentare se i dipendenti chiedono che il salario minimo salga da $7.50 a $15, abbi pazienza. Pensate che nel 2012 il compenso medio degli amministratori legati di fast food in America è stato di quasi $27 milioni, cioè $11.000 l'ora, mentre i lavoratori del settore sono appunto tra i meno pagati in assoluto negli Stati Uniti, hanno una media di $9 l'ora. Buona notizia dagli Stati Uniti invece per quello che riguarda l'indice ISM sul manifatturiero: è salito a quota 59, il livello più alto da 3 anni a questa parte. Sono anche volati gli ordinativi americani, pensate che sono arrivati a quota 66,7 punti, che può non dir molto, ma in realtà è il livello più alto nei nuovi ordinativi all'industria dal 2004. E anche la spesa per l'edilizia in America sale ai massimi dal 2012. Ora, tutti questi sono indicatori di un'economia americana che è ampiamente ripartita. È vero però, come ha fatto notare anche la presidente della Federal Reserve Yellen, che il tema dell'occupazione non è ancora tornato ai livelli pre-crisi e molto resta da fare. Però che sul fronte dei dati economici in America ormai da mesi dia dati quasi tutti in un'unica direzione di una ripresa dell'attività economica robusta e seria, beh, anche oggi ne abbiamo un esempio. Di Draghi abbiamo detto, ne parleremo nella seconda ora del programma. Faccio notare che oggi anche Le Monde si occupa di Draghi, ma con un taglio opposto rispetto al Financial Times. Il quotidiano francese infatti dice l'importanza di Mario Draghi sarà un capitolo nella storia dei nostri figli quando gli storici ricostruiranno il periodo contemporaneo, e vi sarà un capitolo con il titolo L'importanza di Mario Draghi. Questo perché, continua Le Monde, l'uomo che presiede la Banca Centroeuropea ha il riflesso dei grandi nella tempesta, manda quel paese l'ortodossia, e Draghi aveva ragione 2 anni fa quando si disse pronto ad acquistare massicciamente debiti pubblici. A Berlino tuonarono al sacrilegio, ma in realtà ha avuto ragione lui. Obiettivamente quella di Draghi fu una mossa giustissima quando disse: noi difenderemo l'euro con ogni strumento a nostra disposizione, 2012, anche utilizzando strumenti non convenzionali, e lì tutti gli speculatori che puntavano sul crollo dell'euro capirono che andavano a scottarsi le penne ad andare contro la banca centrale. E dobbiamo la tenuta dell'euro e il calo degli spread proprio a Mario Draghi. La Svizzera non fa parte dell'Europa, ma politicamente non fa parte dell'area euro, ed economicamente, ma dal punto di vista geografico sì, e anche delle sue ripercussioni. Perché lo dico? Perché oggi la Svizzera ha conosciuto un dato brutto sulla crescita economica. c'era un'attesa di un PIL nel secondo trimestre in rialzo dello 0,5%, invece ha fatto zero. Era riuscito fino ad ora a evitare la recessione il paese elvetico, grazie soprattutto all'export verso l'Asia e a una domanda interna. Ora però le difficoltà di Francia e Italia, ma anche la frenata della Germania, hanno prevalso ed ecco perché il PIL svizzero si è fermato. Torna leggermente a crescere la disoccupazione in Spagna dopo una tendenza positiva che andava avanti da mesi. In Italia l'occupazione delle grandi imprese è calata a giugno, però con un calo più debole rispetto al passato, meno 0,8%. La Coldiretti però fa sapere che nel mondo dell'agricoltura si è registrata una crescita record delle assunzioni. Eccola qua, perché no, eccola qua il messaggio di insulti, scusate, mi stavo leggendo anche gli sms. Allora, no, perché c'è sempre qualcuno che, come iniziamo un programma, riempie di complimenti, per modo di dire, il conduttore. Dicevo, la Coldiretti più 5,6% le assunzioni nel secondo trimestre dell'anno, e questo rispetto al secondo trimestre del 2013. Il trend positivo dell'agricoltura è il risultato di una crescita record al nord, come assunzioni più 27%, e anche al centro più 28%, meno 8% al sud. Dei tassisti di Uber in Germania, vi hanno già detto i nostri GR, comunque qualcuno vuole che confermi la notizia. Sì, il Tribunale di Francoforte ha chiuso Uber, quell'applicazione che permette di avere un autista a portata di smartphone. Abbiamo contattato, cercato i vertici di Uber in Italia per capire la loro posizione, non vogliono parlare fino al 4 di settembre, quando hanno detto che arriverà un'importante novità. Attendiamo con ansia. In Germania intanto i trasgressori del veto potrebbero essere colpiti da multe fino a 250.000 euro o addirittura all'arresto. Questo nel giorno in cui invece le forze dell'ordine tedesche, ve lo ricordavo nei nostri GR, hanno arrestato decine di autisti italiani con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Il primo caso fu il noleggio, alcuni erano autisti, altri erano NCC, attenzione a non far confusione, in un caso si trattò di quindi non tassisti in senso stretto. L'arresto del noleggiatore Alessio Tavecchio di Vicenza fu trovato in Germania mentre trasportava 10 profughi siriani. Il punto è che in Germania, siccome non esiste la condanna in contumacia, il rischio forte, come hanno spiegato i nostri GR, è che questi autisti si facciano 4 mesi in attesa del processo in Germania. Ultimo dato, me la dice lunga appunto sulla liquidità che c'è, non ci sono i consumi, non c'è il lavoro, non c'è la crescita economica, ma i soldi, la liquidità c'è. Perché lo dico? Perché l'industria del risparmio gestito, complice anche un rendimento dei titoli di Stato pari, non dico a zero ma vicino allo zero, ha registrato nel secondo trimestre dell'anno una raccolta positiva per 31 miliardi, praticamente l'amministrato, il patrimonio amministrato nel suo totale, nel suo complesso, ha un nuovo record di 1.460 miliardi. Allora, adesso arriviamo anche al mondo del commercio. Prima però, una regione noi molto, che ci sta molto a cuore, ed è la Sicilia, ci offre nuovi spunti. Questa volta però, devo dire la verità, e invito anche altri ascoltatori a farlo, la segnalazione ci è arrivata direttamente dagli ascoltatori. Ecco, magari, non dico cambiare la testa degli amministratori, di certi amministratori locali, troppa grazia, ma magari arrivare anche a maggior numero di segnalazioni da parte dei cittadini già vorrebbe dire che una rubrica di cui avremmo volentieri fatto a meno sta ottenendo qualche effetto. Comunque parliamo dei contratti con Italia Lavoro in Sicilia. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, il sogno lo sapete qual è, non avere più questa rubrica, però 3 milioni di euro per i consulenti, ossia le consulenze esterne. Cosa è successo? Il governo regionale siciliano, tramite il decreto del dirigente generale Anna Rosa Corsello del 18 giugno, ha dato il via libera al progetto esecutivo presentato da Italia Lavoro, che è società strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutto legittimo, da parte della società ci mancherebbe. Italia Lavoro ha presentato alla Regione Sicilia un progetto da 5 milioni di euro. Bene. Peccato che di questi 5 milioni di euro, 3 milioni sarebbero serviti per pagare un centinaio di consulenti esterni. Ora, io non so, cioè, è chiaro che ci sono consulenti importantissimi, ci sono funzioni e competenze che hanno solo in pochissimi, però un centinaio di consulenti in una regione che ha 20.000 dipendenti, 7.000 più 7.000 lavoratori nelle società partecipate e anche una società regionale strategicamente impegnata nel settore dell'informatica, Sicilia e Servizi, un'altra che ha svolto negli anni le attività di assistenza tecnica, Sviluppo Italia Sicilia, non si capisce bene a cosa servono. Allora, i 5 milioni sono stati divisi in due macro aree. La prima, che si è beccata 2 milioni, è quella riguardante l'attuazione degli avvisi di un progetto che a noi resta un po' misterioso, si chiama, virgolettato, Giovani in Sicilia. Ok, giovani in Sicilia, adulti in Campania, anziani in Lombardia, non so, che è? Giovani in Sicilia, comunque 2 milioni. Poi la seconda macroarea riguarda, che si è beccata 3 milioni, quindi gli altri 3 milioni, è relativa allo sviluppo e riqualificazione del personale dei servizi per l'impiego. Allora, da come capiamo noi, questi 5 milioni sono serviti per le operazioni relative alla pubblicazione e alla divulgazione dei bandi e per le attività di potenziamento dei centri per l'impiego. Andiamo avanti, perché questa vicenda è veramente... Allora, per la parte sviluppo e riqualificazione del personale dei servizi per l'impiego, quella che si è presa 3 milioni, la quota destinata ai consulenti esterni è oltre 1.700.000, ai quali si aggiungono le spese per le trasferte e si arriva a 2 milioni. Alle risorse interne sono destinati solo 700.000 euro. Praticamente, cioè, se uno mette assieme le due tranche, le due macro aree, la regione ha approvato un piano che prevede il finanziamento di consulenze e contratti esterni per quasi 3 milioni e mezzo, cioè sarebbe, allo stato dell'arte, il più grande piano di consulenze nella storia recente della regione Sicilia, che già sul fronte consulenze, come altre regioni, vantava un discreto track record, come dicono quelli che hanno studiato. Non basta, perché per l'attivazione dei bandi degli avvisi del progetto Giovani in Sicilia la regione avrebbe sborsato tramite Italia Lavoro circa 1.200.000 euro in stipendi, ai quali la società avrebbe poi aggiunto curatamente oltre 295.000 euro per le spese di trasferta, perché gli esperti e i consulenti ovviamente non possono risiedere anche in Sicilia. E poi 160.000 euro destinati alla non meglio definita attività di coordinamento. Beh, comunque, visto che è un programma che si occupa anche di record, un bel applauso, visto che la Regione Sicilia ha varato questo, il più grande piano di consulenza della sua storia recente, lo attribuiamo, non se ne abbia, governatore Crocetta, però o ce la smentisce o noi l'applauso glielo diamo. Neanche entrare nel merito se con 20.000 dipendenti, 7.000 lavoratori in società partecipate proprio fosse necessario spendere 3 milioni per un centinaio di consulenze. Secondo me la risposta è talmente ovvia che è avvilente darla. La borsa ha chiuso, mezzo punto percentuale di rialzo, adesso c'è il metro, la pubblicità, poi partiamo con i saldi in generale e poi anche con la vicenda NTV, la borsa e le accuse / critiche all'operato di Mario Draghi. 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, visto che mi stanno scrivendo alcuni tassisti, abbiamo precisato sia nel GR che in questo programma, sia nel GR 24 che in questo programma, che non si tratta di tassisti ma di autisti. Ho detto anche NCC, quindi nessuno sta dicendo che... Però la vicenda secondo me darà anche qualche strascico. Ma torniamo invece ai saldi o non saldi. Non ci sono ancora dati complessivi. Abbiamo vari dati che arrivano, per esempio, dalla Confcommercio di Roma. Ci sono anche analisi da Confesercenti, però in realtà ormai ci siamo. Oggi, se non ricordo male, in moltissime città è l'ultimo giorno per i saldi. Allora ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento il presidente di Confesercenti, Marco Venturi. Buonasera. Buonasera. Allora, presidente, poi arriveremo anche a qualche elemento, visto io, ma riguarda più il mondo dell'agricoltura, un po' più positivo. Che dati, seppur probabilmente ancora parziali, state raccogliendo, visto che ormai ci siamo? No, per i saldi ancora non abbiamo dati, cioè dobbiamo vedere come vanno, quindi non vogliamo dare numeri che ancora non... No, numeri definitivi, ho precisato, non ne avete ancora. Diciamo che c'è l'andamento è sotto le aspettative, perché noi pensavamo che anche la crisi, che aveva ridotto gli acquisti diretti, diciamo, a prezzo pieno, poi avrebbero favorito i saldi. Invece la crisi è tale, la sfiducia è tale, per cui anche l'inizio dei saldi, speriamo che non sia così poi quest'ultima coda che c'è, sono sotto quelle aspettative che avevamo, insomma, e quindi questo ci dice ancora che, nonostante qualche segnalino, però le difficoltà e la sfiducia continua, quindi in qualche modo ad avere il sopravvento, e questo crea ovviamente forti problemi non solo al commercio, ma diciamo che è un sintomo dell'andamento della fiducia e quindi dell'economia in generale del nostro paese. Allora, io so che quello che sto per chiedere verrà letto da alcuni in maniera politica, ma io non faccio politica in questo caso, però l'effetto degli 80 euro, quindi adesso vedremo il dato definitivo, leggevo quello che è la stima di Confcommercio a Roma, Federmoda, almeno 5% a luglio rispetto al 2013, ma insomma un effetto sui consumi, attenzione, uno gli 80 euro li può avere presi, ma se non si fida della situazione futura... forse anche giustamente li tiene sotto materasso, non li spende. Voi non l'avete visto, mi sembra di capire, fermo restando che i dati sono ancora parziali. Ma diciamo che comunque parliamo di un bel po' di miliardi che girano. È chiaro che se non si ritrova fiducia nelle prospettive, anche quei soldi in parte, perché in parte sicuramente vengono spesi, soprattutto appunto parliamo di redditi bassi, quindi è difficile poi accantonare, però diciamo c'è una attenzione maggiore. E quindi magari c'è l'aspettativa che c'era della spesa totale del circuito di questi 10 miliardi, evidentemente non è tutta così, però voglio dire è comunque un passo, un aiuto, figuriamoci che succedeva se non c'erano questi 10 miliardi. Sì, questo è un ragionamento che si può fare, cioè uno può dire chissà come sarebbero andati i consumi che già sono ai minimi, senza questa operazione. Un altro elemento però che voi invece avete fatto emergere oggi, tra luglio e agosto avete registrato nel mondo del commercio due chiusure ogni nuova apertura, se ho ben capito, cioè 5.460 chiusure e 2.600 aperture. Quindi con un saldo di meno 2.860, quindi questo ci dice che continuiamo a perdere, quindi a perdere anche imprese, il che vuol dire anche ovviamente lavoro e ricchezza, perché per quanto poco, per quanto marginalità, però diciamo sono delle imprese che offrono lavoro e comunque fanno girare un po' di soldi, quindi noi ci stiamo impoverendo, ma in una situazione generale che ormai da qualche anno si trascina e che ci ha visto perdere quindi tante imprese e tanto lavoro, quindi noi dobbiamo cercare di invertire questa tendenza, ma per invertire questa tendenza bisogna che ci siano dei provvedimenti importanti che rimettono in moto l'economia, prima di tutto la fiducia, ma anche l'economia. Ecco, tra l'altro, se ho ben capito, allora, il dato è identico a quello del 2013, Però il 2013 fu il peggior anno di sempre, Presidente Venturi, ho capito bene? Per cui cioè, non c'è stato un peggioramento, ma non è ma è un dato ancora molto molto pesante. Mettiamolo è un dato così. Pesante perché comunque è un dato negativo e quindi questo chiaramente vuol dire che si sta trascinando una crisi lunga, perché noi abbiamo perso, diciamo, imprese commerciali rispetto a quelle che si sono iscritte, le nuove iscritte, dal 40% che abbiamo perso nel 2010 a scendere ma fino a un 5,7% anche nel 2013, quindi ancora abbiamo, diciamo, una caduta delle aperture delle imprese, e poi abbiamo dall'altra parte le chiusure, perché molti chiudono perché non ce la fanno più, e quindi noi perdiamo imprese, il che vuol dire che perdiamo lavoro, il che vuol dire che perdiamo anche ricchezza per il paese. E tra l'altro, se ho ben visto, voi dite un'impresa del settore su quattro vive meno di 3 anni, cioè il 40% delle attività avviate nel 2010, 27.000 imprese hanno già chiuso. Ma questo è il frutto anche di una disperazione, cioè di chi non ha un'altra alternativa di lavoro, e molti provano ad aprire una piccola impresa illudendosi in tanti casi nel potercela fare. E questa situazione, quando c'è un anno di crisi, chiunque regge, non chiude perché c'è un anno di difficoltà, ma quando noi ci troviamo in questa situazione, qui siamo al quinto anno di difficoltà, è chiaro che se non si hanno risorse adeguate per reggere anche le perdite, alla fine si chiude, non ha senso tenere aperto e continuare a perdere. Senta, un'ultima domanda, Presidente Venturi, per quello che riguarda invece il settore del turismo, allora lì sappiamo che c'è una variabile meteorologica che, diciamo, spiazza completamente, questo è inutile dirlo, qualunque raffronto precedente, ma avete qualche dato in più o continuate ad avere questa, diciamo, dati parziali ma anche qui decisamente negativi? Allora, non abbiamo un dato, diciamo, dell'andamento della stagione, ma che avremo nei prossimi giorni, però abbiamo già una tendenza, senza numeri, ma una tendenza che anche quella non è che noi abbiamo il commercio che ha difficoltà perché certo. La gente ha sfiducia e poi ce l'ha per il turismo, anche lì si accorciano i giorni, si accorcia la distanza per esempio di dove si va, insomma si cerca di risparmiare, è un atteggiamento prima di tutto per i soldi che mancano e seconda cosa anche psicologica, cioè la gente tende a difendersi, insomma, spendendo di meno, cercando di allungare il tempo che gli consente di fare le altre cose che sono urgenti e importanti, e quindi vedremo poi alla fine della stagione, tireremo le somme, ma qualche preoccupazione c'è. Grazie, in bocca al lupo a tutti gli associati e in questo caso a tutti i commercianti di questo paese, grazie al presidente di Confesercenti che appunto rappresenta mondo del commercio, quindi turismo, servizi, per un totale di circa 1 milione di occupati. Grazie quindi a Marco Venturi. Allora, qualche risposta velocissima a chi scrive al 349-238-6666. Un ascoltatore mi dice: un po' di giorni, settimane che non sento parlare della Sicilia. Sono per caso diventati virtuosi? No, si è perso la prima parte del programma oggi. Molti intervengono sugli 80 euro, mi scrivono alcuni ascoltatori, io li ho spesi per pagare una bolletta arretrata, in un altro caso per l'apparecchio, l'apparecchio dentale per il figlio. Verissimo, e molti scrivono: beh, attenzione, chissà come sarebbe andata senza gli 80 euro. L'abbiamo detto anche noi, ci mancherebbe. È ovvio che con questa situazione chi ha avuto modo di incassarne 80, abbiamo spiegato in molti casi qual era, le Sole 24 ore ha fatto intere tabelle sulle fasce di reddito, beh, probabilmente ha sistemato arretrati e quindi in molti casi un effetto sui consumi non l'hai visto. Invito anche chi è invece molto critico sugli 80 euro ad avere un po' di pazienza, non perché abbia la sfera di cristallo e possa dire che fra sei mesi si vedranno i benefici, però certo è che se tu ricevi, ammesso anche che tu abbia ricevuto 80 euro pieni, o nel migliore dei casi 160, tu e tua moglie, perché eravate nella fascia di reddito dove si scaricava il massimo del beneficio, probabilmente non li vai subito a spendere per consumi, diciamo, ma appunto vai a sistemare, mettere da parte. Forse dopo qualche mese, se ti rendi conto che hai un beneficio in busta paga, inizia anche a allargare la platea delle possibili scelte, però quindi un po' di pazienza ci vuole, visto che l'iniziativa ha pochi mesi. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, eccolo qui il genio. Finché ci sono trasmissioni come la sua, chi psicologicamente si rialza. In Sicilia ero in ferie una settimana fa, non c'era un buco da nessuna parte. E in effetti è noto che è focus economia avere depresso le attese degli italiani e depresso i consumi, e ci mancherebbe. Ricorda certa retorica di chi diceva sono i giornali e i giornalisti che creano la crisi parlando sempre di cose negative. Allora facciamo una cosa, provate a non comprare i giornali per una settimana, non ascoltare questo programma per una settimana, poi vediamo se la crisi passa oppure no. Mi sembra, se uno magari si sveglia e ha più soldi, sta meglio, più voglia di consumare, i clienti entrano nel negozio, va bene, va bene. Era una vecchia retorica di certa politica di dare la colpa ai giornali e dare la colpa al medico della malattia. Eleonora Micheli di Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. E bentornata. Allora, la borsa oggi mezzo punto percentuale su Milano, invariata Parigi, più 0,30 Francoforte, Londra invariata, l'America meno 0,20%. Il dato sul risparmio gestito ha pesato in maniera positiva su Mediolanum, più 3%. Infatti oggi si è mosso al rialzo un po' tutto il risparmio gestito, ma in particolare ha fatto bene Mediolanum. Ricordiamo che il risparmio gestito nel secondo trimestre è salito oltre 30 miliardi a 30,9 miliardi contro i 29,5 del primo trimestre. Come dicevi tu poco fa, probabilmente anche qualcuno che ha ricevuto gli 80 euro, chissà, evidentemente ha risparmiato. Sì, adesso io ti prego di non rintrodurmi il tema, perché adesso se vogliamo immaginare che chi ha ricevuto gli 80 euro li ha spesi per la borsa, chiamiamo veramente la neuro in questo caso, perché cioè, uno che ha una difficoltà a consumare però li investe in borsa, cioè, è vero che c'è anche chi si prende la busta paga e la porta al casinò. Non voglio paragonare la borsa al casinò, ci mancherebbe. Era una battuta per dire comunque. Anche perché il casinò è una cosa seria. Era una battuta per dire che comunque nel secondo trimestre del 2014 la raccolta totale dell'industria del risparmio gestito è salita rispetto ai primi tre mesi del 2014. Andiamo avanti, Mediolanum abbiamo detto, e invece Luxottica, dopo la buona uscita, si sono fatti i calcoli. 45 milioni con le azioni così, ma al di là della buona uscita di guerra, meno 0,80%, oggi mi sembra che non ci siano grossissimi movimenti, li abbiamo visti ad agosto quando è arrivata la notizia. No, infatti oggi c'è stato qualche presa di beneficio, del resto poi negli ultimi giorni le Luxottica avevano tentato di rialzare la testa, comunque i giudizi degli analisti sono tutto sommato positivi, soprattutto perché ci si attende che a questo punto potrebbe migliorare la redditività e l'azienda potrebbe decidere di dare una cedola più generosa, come peraltro ha detto proprio ieri Cavatorta, che diventerà uno dei capi dell'azienda insieme a un altro manager da individuare. Allo stesso del vecchio. Ancora per quello che riguarda i titoli, oggi abbiamo visto, nonostante i dati di ieri, in ripresa a un certo momento Fiat, che poi però ha chiuso con un più 0,30%, Autogrill bene, più 2,60%, oltre Autogrill guadagna Tods, più 1,80%, Generali più 1,5%, come Monte dei Paschi, l'1,40% rialzo del Banco Popolare e di Pirelli, ma anche di Tenaris, l'1,30 quello di Mediaset, l'1,20 quello di Unicredit, l'1,1 quello di Buzzi, Unicem, Woody Free e Campari, Tenaris e Pirelli. Sì, Tenaris e Pirelli sono andate abbastanza bene. Su Tenaris, diciamo, ha acceso i riflettori uno studio di UBS dove gli analisti hanno messo in evidenza che il settore dei tubi dovrebbe andare particolarmente bene negli Stati Uniti. Inoltre, da mettere in conto che possa aumentare il prezzo dei tubi, ricordiamo che la società produce tubi per le perforazioni anche in Argentina e in Messico, e quindi questo ha favorito qualche ordine in acquisto sui titoli. Per quanto riguarda Pirelli, anche in questo caso, diciamo, sono stati i report degli analisti usciti negli ultimi giorni a riaccendere i riflettori sulla società, in particolare report che scommettono su un business che vada bene nei prossimi mesi e che rispetti le indicazioni fornite di recente dai vertici dell'azienda, nonostante peraltro il deprezzamento del real brasiliano. Ricordiamo che Pirelli è molto presente in Brasile. Sì. Anche Telecom, come mai sanno tutti. Però andiamo avanti con le notizie migliori e peggiori in assoluto. Meridie più 16,40, investimenti e sviluppo più 13,20, Sogefi più 6%, Poligrafici più 4,30, Frontopposto Hi-Real meno 5,20, AF meno 5,10, Grandi Viaggi meno 4,40, Credem meno 3,50%. Grazie, Leonora Micheli, di Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, Italo è la polemica che si è, o meglio, la querela che si è scatenata contro Gasparri. Italo vuol dire i treni NTV, che sono in crisi. Nelle prossime settimane la società potrebbe annunciare l'avvio di procedure per la messa in mobilità di 300 dipendenti, che su 1000 in totale vuol dire il 30% dipendenti che già vivono con il contratto di solidarietà. Sono arrivati sostanzialmente 156 milioni in due anni da parte del gruppo fondato nel 2006 da Montezemolo, Della Valle, Punzo e Sciarrone. Però attenzione, le perdite sono arrivate a 156 milioni con un debito complessivo che è di 780 milioni di euro. Il colpo di grazia, secondo i vertici dell'azienda, dopo la guerra dei prezzi scatenata da Trenitalia, su cui NTV ha presentato un ricorso antitrust, e la sostanziale mancanza di un'autorità di settore, è arrivato con il decreto competitività del ministro Guidi, perché fine del regime agevolato, tariffario agevolato, introdotto nel 63, con un incremento dei costi da 15-20 milioni l'anno a partire dal 2015. Un livello, secondo l'azienda, insostenibile, visto che già paga 120 milioni l'anno per l'accesso alla rete. Gianni Dragoni, del Sole 24 Ore. Buonasera a te. E bentornato. Prima domanda, poi l'altra dopo il GR. È veramente, adesso, questa è la posizione dell'azienda, è questo il quibus, cioè l'elemento che ha peggiorato tutti i conti e non permette più di reggere l'attività? No, non è questo, perché peraltro questo provvedimento dispiegherà i suoi effetti dall'anno prossimo, mentre, come tu hai ricordato, le perdite degli ultimi due anni, 2013 e 2012, sono già arrivate a 156 milioni, quindi la piccola compagnia ferroviaria lanciata però da questi azionisti molto importanti, molto noti, molto, diciamo, ben introdotti con le relazioni, e purtroppo forse aveva sottostimato la possibilità di andare in pareggio contro un colosso come le Ferrovie dello Stato, che sia per la frequenza di treni molto più numerosa, quindi hanno catturato molto più traffico, sia con la guerra tariffaria, che però, diciamo, hanno la possibilità di fare. Le tariffe comunque dell'alta velocità sono sempre piuttosto alte, quindi probabilmente Montezemolo e soci avevano previsto di poter andare in attivo dopo tre anni. Così non è stato, anzi rischiano di perdere il capitale. E il provvedimento sull'aumento, diciamo, sulla riduzione delle tariffe agevolate, però non ha ancora prodotto effetti, quindi certamente sarà un aggravio, ma non è la causa. 18:09, ritorno a Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, Gianni Dragoni, stavamo dicendo, fermo restando che le accuse che fa NTV Italia al ministro Guidi possono essere anche comprese, ma devono ancora scaricare i loro effetti, quindi la fine del regime tariffario agevolato a partire dal 2015, quindi un incremento dei costi per 15-20 milioni l'anno. Che cos'è che non ha funzionato, visto che appunto sono già in solidarietà i lavoratori, potrebbero essere messi in mobilità 300 su 1000? Non voglio più commentare Gasparri perché ho già spiegato, a parte che adesso NTV ha querelato il senatore Maurizio Gasparri, che nel momento in cui una società è in difficoltà, mettersi a far politica così, siete quasi falliti con un tweet, è rischioso comprare i biglietti venduti da Della Valle e Montezemolo, cioè presto chiuderete, mi sembra veramente di bassissimo profilo e cabotaggio, perché a noi interessa non la polemica tra Gasparri, Montezemolo e Della Valle, ma ci interessa il destino dei 1000 lavoratori. Scusi Gasparri se ci occupiamo di cose così prosaiche. Andando avanti però, Gianni, NTV dice ci ha penalizzato la politica aggressiva dei prezzi e quindi di forti ribassi di Trenitalia, e vedo molti commenti che dicono Trenitalia riceve i soldi dallo Stato, quindi è difficile scontrarsi con un ex monopolista. Altri scrivono invece attenzione, no, l'offerta di NTV non era di qualità. Adesso io non voglio entrare, ma vorrei da te l'analisi. Allora, vediamo l'offerta iniziale. NTV, quando ha cominciato a operare nel 2012, all'inizio aveva pochi, mi pare fossero 5 collegamenti al giorno tra Roma e Milano, che poi rimane essenzialmente la rotta di larga prevalenza su cui opera Italo. 5 contro alcune decine, quindi diciamo è un'offerta proprio piccola, poi si è incrementata, sono arrivati altri convogli, tuttavia non è mai stata un'offerta competitiva dal punto di vista del numero di frequenze, perché è sempre rimasta inferiore. Le ferrovie dello Stato, Trenitalia, hanno molti più treni, e un aspetto che credo abbia indotto molti viaggiatori, a parte le tariffe che però erano abbastanza allineate, solo in certi momenti le ferrovie dello Stato hanno ridotto, in realtà le tariffe io direi che erano abbastanza livellate verso l'alto, non c'è stato un gran ribasso, infatti le tariffe dell'alta velocità sono molto care anche su Trenitalia, che fa utili anche se riceve soldi dallo Stato per altri tipi di collegamenti, è che regionali, per esempio, regionali sì. Sì, che poi perché peraltro sono spesso di qualità insufficiente o comunque su cui i passeggeri, i pendolari hanno motivo di lamentarsi, quindi questo sarebbe un altro capitolo. Ma Italo non ha avuto accesso alle stazioni principali, cioè né a Milano Centrale né a Roma Termini. Questo a Roma Termini è stato recentemente, ha ottenuto di poter operare, ma credo che non operi ancora, comunque non incide su questi risultati. A Roma è a Roma Tiburtina, Roma Ostiense, e a Milano Porto Garibaldi, quindi Porta Garibaldi, quindi sono stazioni che non sono quelle centrali, non sono quelle più connesse anche con un'altra rete di traffico che magari può alimentare o da cui un viaggiatore può ripartire per destinazioni regionali o comunque collegate. Quindi questo è secondo me il primo motivo per cui ha reso meno appetibile l'offerta di Italo NTV rispetto a quella delle ferrovie, il fatto poi di avere molti meno collegamenti. Se un viaggiatore, per vari motivi, siccome l'alta velocità si basa sul fatto che tu possa viaggiare in giornata anche senza doverti fermare, se tu hai solo hai pochi treni al giorno, hai un numero comunque ridotto, sei meno flessibile nei tuoi tempi, certo. Devi aspettare di più. Però scusami Gianni, si ferma restando che appunto è Porta Garibaldi, non Porto, nonostante il Seveso non è ancora un porto, però vedremo. No, Porta Garibaldi. Però dico, se io ti dicessi e sintetizzassi quello che hai appena detto, dicendo che sul fronte delle stazioni e quindi della qualità della partenza e dell'arrivo, lì vi sono stati dei paletti messi dall'ex monopolista, ma sul fronte dell'offerta lì la responsabilità è di NTV e basta, tu saresti d'accordo oppure no? Allora, sì, perché NTV ha fatto una pianificazione in cui sembrava che le Ferrovie dello Stato, qui c'è stata probabilmente anche una tattica di Moretti che aveva fatto credere che le Ferrovie dello Stato sembrava, se andiamo a riprenderci quello che scriveva, quello che veniva scritto sui giornali, che avrebbero, siccome è stata fatta la nuova stazione Tiburtina, è stata ampliata, si è speso molto per la Roma Tiburtina, aveva quasi fatto capire che avrebbe spostato il centro delle sue operazioni a Roma, alla Tiburtina. Poi questo non è avvenuto, non so se l'abbia fatto per ingannare il concorrente che ha chiesto di operare da lì, o invece ci abbia ripensato, questo non è chiaro, però Roma Termini rimane certamente l'approdo principale preferibile, sia per chi abita, vive a Roma, sia per chi debba magari prendere un altro treno. Sì, su Garibaldi personalmente sono meno d'accordo, nel senso che la distanza tra Garibaldi e la centrale a Milano sarà di 700 metri, un chilometro neanche, e non è che siano messe così, cioè non è che Garibaldi sia messa in una zona così decentrata rispetto a Milano, rispetto alla centrale, per cui insomma, sì. Obiettivamente, tuttavia, però è un po' meno appetibile. Poi c'è un altro aspetto che io metterei in evidenza, e cioè uno industriale e uno di tipo, diciamo, la regolamentazione, l'indipendenza, l'esistenza di un arbitro, che è un aspetto importante anche quello, e cioè che comunque NTV è partita con un livello di patrimonializzazione capitale un po' basso rispetto a quello che è l'impegno finanziario, perché in pratica è partita con circa 1 miliardo effettivo di indebitamento, leasing per l'acquisto poi dei treni, che sono 25 i convogli totali che ha messo insieme in alcuni mesi Italo. Quindi 1 miliardo di indebitamento con un capitale di alcune centinaia di milioni è effettivamente un po' sbilanciata, per cui se adesso NTV sbilanciata in negativo, cioè troppo appesantita la quota dei debiti, per cui se a causa delle perdite gli azionisti hanno già integrato il capitale negli anni precedenti, però nel primo trimestre di quest'anno il capitale si è ridotto ulteriormente di un terzo a causa delle perdite, il punto è che se gli azionisti non, siccome le perdite ci saranno ancora, sì, sono previste anche l'anno prossimo e si aggraveranno anche con questo provvedimento contestato da Italo, quello sull'energia che toglie le agevolazioni, è chiaro che se si assottiglia o si azzera il capitale la società, certo, avrebbe un problema in più. L'altro aspetto forse è che le ferrovie, siccome sono sia proprietarie della rete, cioè quella che deve decidere le tracce e i passaggi anche della concorrenza, sia proprietarie del vettore, cioè Trenitalia, hanno un po' un doppio ruolo, e quindi certamente questo penalizza anche chi un po' ascolta, sa che in questo programma abbiamo sempre sostenuto la separazione tra rete, valeva per il gas, per la telecom, per tra rete e quello che circola sulla rete, la vera concorrente. Non sto adesso dicendo che questo sia motivo per NTV, però la vera concorrenza la garantisci e non fai venire sospetti quando quando chi ci porta sopra merci o ci fa transitare su queste reti beni o servizi non è proprietario anche della rete stessa, se no gli altri concorrenti rischiano, e il sospetto viene, di essere svantaggiati. C'è stata una nota però del presidente di NTV Italia Perricone, il quale ha detto, Antonio Perricone, in un'intervista che ha solo l'ANSA, dopo aver annunciato la querela al vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri per le sue dichiarazioni, ha detto: trovo inaccettabile che un vicepresidente del Senato abbia scritto quelle cose, è sorprendente che nessuno della politica abbia reagito, anche arrivando a chiedere le sue dimissioni. NTV comunque nell'occhio del ciclone, ma quest'anno supereremo i 6 milioni e mezzo di viaggiatori, siamo soddisfatti di come sta andando la domanda del mercato verso di noi, abbiamo però problemi di regolazione del settore con una politica che ha varato la liberalizzazione ma poi l'ha abbandonata in mezzo al guado, senza assicurare un arbitro, ecco qui l'autority, che vigilasse sulla parità di condizioni e dell'accesso al servizio. Grazie a Gianni Dragoni. L'uomo che ha, secondo la maggior parte degli osservatori, salvato l'euro o ha contribuito a salvare l'euro nel 2012 dal cul-de-sac in cui si era infilato grazie anche alla politica tedesca, dicendo ai mercati e agli speculatori: attenzione, useremo qualunque strumento a nostra disposizione per difendere l'euro. Mi riferisco chiaramente a Mario Draghi. presidente della Banca Centrale Europea. Secondo Le Monde, addirittura, lo scrive oggi il quotidiano francese, vi sarà un capitolo nei libri di storia futuri che si intitolerà dell'importanza di Mario Draghi, quando gli storici ricostruiranno il periodo contemporaneo, perché è l'unico uomo, dice Le Monde, che ha il riflesso dei grandi nella tempesta e riesce a mandare a quel paese l'ortodossia. Però sempre oggi il Financial Times, altro quotidiano importantissimo britannico, dice: attenzione, Merkel e Draghi hanno fatto errori gravissimi, la situazione attuale è più frutto di questi errori che della bolla finanziaria che arrivò dagli Stati Uniti. E lo scrive Wolfgang Münchau, che è l'esperto di economia, uno degli esperti di economia del Financial Times, dicendo: attenzione, l'ostinazione per l'austerity e il ricatto con cui è nato il fiscal compact, Draghi lo ha accettato, ma non sembra capire che il modello macroeconomico su cui si basa il funzionamento della BCE non sta più funzionando. Dalla sigla avete capito che è tornato un uccellaccio non sudato, perché ha fatto molto fresco quest'estate, Giulio Sapelli, economista, docente di storia economica alla Statale di Milano. Buonasera, professore. Buonasera, io non sudo mai, Barisoni. Va bene, ok. Senta, professore, una cosa, meno male perché stando in alto gocciolerebbe qui, una cosa... È possibile, allora, fermo restando che abbiamo elogiato decine di volte Draghi e non solo per il suo inglese, però le faccio una domanda: nel momento in cui l'Europa scopre di non avere crescita, e vabbè l'area euro, ma di avere anche la deflazione, cioè i prezzi fermi, e da più parti mi scrivono gli ascoltatori: attenzione, rischiamo una bolla finanziaria perché il denaro costa pochissimo, ce n'è tanto, leggevo oggi il dato sulla raccolta dei fondi di investimento, ma i consumi non ripartono, l'occupazione non riparte, quindi neanche i consumi, e siamo in deflazione. Si può attribuire, nel massimo rispetto per il ruolo svolto, qualche responsabilità a chi ha in mano la politica monetaria, ossia la BCE, oppure ha già fatto il possibile visto che aveva a fianco, lì a Francoforte, proprio a pochi metri di distanza, aveva un governo, diciamo il governo sta a Berlino, ma insomma un apparato, una struttura, quella della Bundesbank, che gli ha fatto una guerra strisciante ma costante? Dunque, guardi, bisogna in primo luogo ricordare i fatti e le istituzioni e le regole. Le Monde può dire quello che gli pare, ma Draghi sarà ricordato soprattutto per aver fallito nel compito statutario della Banca Centrale Europea. Perché, come lei sa meglio di me, pronto? Sì, la sento molto bene. Sì, bene. La Banca Centrale Europea, a differenza della Federal Reserve, ha uno e un solo compito: la stabilità monetaria dei prezzi, non ha lo sviluppo. Ma Draghi ha clamorosamente fallito questo compito statutario, perché siamo in deflazione. Quindi proprio è venuto meno a quelli che sono i suoi compiti statutari. Questo perché ha fallito? Beh, in primo luogo perché ha fatto molti annunci generalmente a borse aperte, cosa che se farebbe qualsiasi operatore passerebbe dei guai con le authorities dei vari paesi. Ha parlato troppo, ha agito male, perché quando tu capisci che sta arrivando, perché il modello che è prevalso in Europa, guida tedesco, teutonica, nordica, di esportazioni con depressione invece del mercato interno, bassi salari, compressione dei consumi e quindi dei profitti alle imprese, e tu pensi monetariamente di risolvere questa situazione abbassando i tassi e tendendoli allo zero, non fai che fare quello che hanno detto alcuni suoi ascoltatori molto intelligenti: crei le basi per una bolla speculativa senza rispettare i tuoi compiti. Quindi Wolfgang Münchau, che se ne intende, ha messo il dito sulla piaga. Quindi Draghi sarà un caso di studio. Sì, posso difendere Draghi, che non ha nessun bisogno di essere difeso da me. Però che cosa doveva fare, mi scusi Sapelli, che cosa doveva fare il presidente della BCE quando aveva da una parte dell'area euro che era per un'austerità ragionieristica senza fine? In primo luogo non doveva credere alle ricette monetarie. La moneta non richiama investimenti, la moneta non crea investimenti e non crea di per sé crescita. La moneta in questi anni, dato che ce n'è stata troppo ed è stata usata male, ha creato la bolla speculativa e soprattutto per il dominio che sull'esercizio della moneta hanno esercitato i top manager stock opzionisti bancari ed industriali. Basta vedere cos'è successo adesso a Lussotti, che ha fatto tremare i polsi, che uno se ne vada con 46 milioni di liquidazione, e non è una banca, pensi cosa capita nelle banche. Ma a parte questa piccola cosa, questo piccolo sassolino che non potevo non togliermi dalle scarpe, si doveva fare una politica, ma la politica devono farle i governi, dato che i governi non esistono più, perché la sovranità nazionale è stata sottratta ed elevata alla commissione eletta da nessuno, perché non è, il Parlamento non ha nessun potere, bisognava fare una politica che favorisse gli investimenti, detassazione, aumento dei salari. Addirittura la Bundesbank ha reclamato e ha detto, facendo arrabbiare la Merkel, che bisognava, udite udite, aumentare i salari minimi del 3% per legge. Pensate un po', i fautori del liberismo vogliono fare questo, che poi è quello che fa Obama nel suo ultimo sgangherato discorso, di un uomo completamente afflitto dai suoi insuccessi in politica estera, però davanti agli operai americani ieri ha detto aumenteremo a $10 all'ora il salario minimo, mentre alcuni stati del sud già l'hanno fissato a $13. Noi abbiamo fatto tutto il contrario, quindi lui doveva non criticare i governi, stare zitto e fare il banchiere centrale, cosa che non ha saputo fare. Beh, io le ringrazio perché mi ha messo in mezzo Draghi, Obama, anche Andrea Guerra, va bene, insomma abbiamo lo spettro degli amici di questo programma, si amplierà. Però detto questo, lei non pensa, storicamente, Sapelli, un paio di minuti scarsi, che Draghi sia stato chiamato a un compito improprio, probabilmente, dall'incapacità dei governi europei, e ripeto, io non ce l'ho con la Germania, ma da una cocciutaggine tedesca, olandese, nel dire no, qui rigore, rigore, e così si esce dalla crisi? Barisoni, la storia dimostrerà, perché spero che avremo ancora gli archivi storici, perché si lavora sugli archivi e non c'è pettegolezzi, che Draghi non è stato messo lì dai governi europei, ma dagli Stati Uniti, per frenare la politica di austerità della Merkel, che loro sapevano avrebbe portato l'Europa alla rovina e quindi avrebbe gravemente indebolito anche gli americani e le loro esportazioni in Europa, cosa che è avvenuta. Quindi tra Draghi e i governi europei non c'è nessun rapporto di causalità. Draghi è uno che è stato messo lì da Tim Geithner, lo scrive anche nel suo libro con molta diplomazia, uscito Stress Test in inglese, che naturalmente in Italia non leggerà nessuno, dove racconta questa cosa. È stato alcuni mesi per convincere gli europei a mettere un uomo che era organicamente legato al capitale finanziario americano. Niente di male in questo, ma è proprio, e lui non ce l'ha fatta, ha fallito il suo scopo. Bene un niente, però io ringrazio il professor Giulio Sapelli, perché la sua analisi uno può condividere, vedo molti messaggi, non condividerla. Io ho premesso all'inizio del programma non ci sono intoccabili, nel senso che ognuno lo può pensare come vuole. Abbiamo elogiato così tante volte l'operato della BCE di Mario Draghi, che forse porsi il dubbio, e lo dico a chi sta scrivendo, se tutte le mosse della BCE siano state azzeccate e se la situazione in cui siamo arrivati, e cioè tantissima liquidità, tassi a zero, cavallo che non vuole bere, consumi che non ripartono, disoccupazione massima e adesso pure la deflazione, non possa avere anche contribuito una cattiva lettura della Banca Centrale Europea. Mi sembra che di Sapelli si possano dire tante cose positive e negative, ma non gli manca certo la chiarezza e non le manda a dire. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Un auguro di buona serata da Sebastiano Brisoni. Radio 24, la passione si sente.